No, perché amici ascoltatori, abbiamo in esclusiva interplanetaria in collegamento con noi il presidente Di Benedetto, che se Luis Enrique non funziona come allenatore fa Sanremo. Presidente! How are you? How are you? Ah, io veramente faccio una buona... buon campionato a tutti, buon calcio mercato. Luis Enrique è un ottimo allenatore, uno molto bravo. Io amare Roma, io Roma fantastica, it's so wonderful. Soprattutto quando io sera uscire, andare a mangiare in un ristorante. Presidente, ma posso chiedere una cosa? Ma quanti soldi ha lei? Quanti soldi ha? Ah, io soldi ho presi tutti da Berlusconi. Ma quanti? Da, quanti ne ha? Dunque, io ho perso conto. Perché, somma Berlusconi, poi Di Benedetti, che io sono Di Benedetto, ma Di Benedetti niente parentela, poi soldi Moratti, Ciocchetti Provera, tutto somma, Murdoch, io adesso pagare cauzione per Murdoch.